Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ogni anno migliaia di giovani lasciano l'Italia per emigrare verso altri paesi. Si tratta per lo più di professionisti, con laurea e master alle spalle. Di loro sappiamo poco, li potremmo tratteggiare con un po'. Quanto tempo è passato? Quasi 2 anni, dal 23 gennaio 2010, quando Giovani Talenti è partita, dedicandosi fin dalla prima puntata al fenomeno della nuova emigrazione professionale. Oggi festeggiamo la puntata numero 100 del nostro programma. Tanta acqua è passata sotto i ponti, di giovani si parla sempre di più in un'Italia travolta dalla crisi. Ne parlano il Presidente della Repubblica e il Premier, ne parlano i ministri e gli imprenditori, così come i sindacati. I motivi che spingono centinaia di migliaia di loro a cercare all'estero opportunità professionali negate in patria non sono più un tabù. Sono anzi al centro della riflessione pubblica. Ancora più parole che fatti, purtroppo, ma il problema è stato identificato. Soprattutto sono stati aperti gli occhi su un'emergenza che non tocca solo i ricercatori, ma gli under e over 40 appartenenti a tutte le categorie professionali. Ci piace pensare di aver giocato una piccola parte in questo processo di presa di coscienza. Ora, al giro di boa delle 100 puntate, il passo successivo: dalla fuga alla circolazione dei talenti, da un paese dal quale si scappa a un paese che attrae e riattrae i migliori. Un paese diverso, giovane, meritocratico e innovativo. Ce la faremo? E questa è la scommessa per il futuro e per il 2012. C'è bisogno di uno svecchiamento, qui l'età media dei ministri del nuovo governo danese è di 35 anni, quindi penso che dovremmo prendere esempio. Lorenza Porcello, 32 anni, è Senior Legal Counsel alla Maersk Oil, la maggiore società navale del mondo a Copenaghen. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. L'Italia ha bisogno di strumenti, infrastrutture e procedure semplici per far rientrare i giovani ricercatori all'estero e per attrarre quelli stranieri, così il ministro per l'Università e Ricerca Francesco Profumo. È chiaro che se noi abbiamo dei salari troppo diversi non riusciremo mai ad attrarre persone di qualità, ha commentato. Per Profumo la politica italiana sulla ricerca deve partire in primis dalla semplificazione. I ricercatori e gli studenti stranieri non possono essere trattati sui visti e i permessi di soggiorno come gli altri lavoratori. La possibilità di passare periodi di studio all'estero è fondamentale nella realtà globalizzata in cui viviamo e permette ai giovani di acquisire una serie di competenze e conoscenze che potranno mettere al servizio del paese di appartenenza. Così la commissaria europea alla formazione Andrulla Vassiliou. L'Europa è pronta a varare il nuovo programma Erasmus per tutti, indirizzato a una platea di 5 milioni di persone che desiderano studiare o formarsi all'estero. E ben 2 cervelli italiani sui 3 finanziati dal Consiglio Europeo della Ricerca nell'ambito della Innovation Convention 2011 lavorano all'estero. Si tratta di Marco Dorigo, ingegnere informatico all'Università Libera di Bruxelles, e del fisico Davide Iannuzzi all'Università Free di Amsterdam. Unico italiano in Italia, Alberto Broggi, docente di ingegneria a Parma. Sono stati i giovani i più penalizzati dalla crisi economica. Nel 2010, secondo l'INPS, i lavoratori under 30 sono diminuiti del 9,2%, in crescita per paradosso i lavoratori over 40. L'Italia arranca nella classifica delle professioni ad elevata qualifica al 18% contro una media europea del 23%. Pochi i laureati, lo scrive il Sole 24 Ore. Lauree e lavoro, i neodottori italiani davanti solo agli spagnoli negli stipendi in ingresso, lo afferma il rapporto Towers Watson, che ha preso in considerazione anche Francia, Germania e Gran Bretagna. I nostri neolaureati guadagnano 23.500 euro lordi l'anno all'assunzione, 1.000 in più rispetto agli iberici, ma a distanza siderale dai colleghi tedeschi, 43.000 euro. Il gap retributivo non cambia a 5 anni dalla laurea, più sale il titolo di studio, più cresce la distanza con l'Europa. I nostri dottori di ricerca sono i meno pagati in assoluto. L'allarme per i neodottori resta alto persino in Lombardia. Secondo l'ultimo rapporto Stella, solo il 44,6% di loro trova un'occupazione entro un anno e solo in un caso su 4 questo impiego è a tempo indeterminato. Secondo Meglio Milano, in 4 anni la disoccupazione giovanile nel capoluogo lombardo e provincia è salita di quasi 8 punti. I pubblici dipendenti italiani sono i più anziani d'Europa e di tutti i paesi OCSE. 1 su 2 ha oltre 50 anni, lo afferma il CNEL, secondo cui tra gli squilibri da correggere in Italia figura pure la debolezza del welfare per i giovani. Replica del ministro per la funzione pubblica Patroni Griffi: occorre sviluppare un meccanismo per attrarre nelle pubbliche amministrazioni le giovani eccellenze, ristabilire un reclutamento costante e collegarvi una formazione continua. L'associazione Padovani nel mondo ha indetto il secondo bando per l'assegnazione di 3 premi per giovani eccellenze venete destinati a giovani di età compresa tra i 20 e i 39 anni residenti all'estero. Le categorie: imprenditoria e management, ricerca e sanità, attività professionale. Domande da presentare entro il 30 dicembre, info a padovani.nelmondo@pd.camcom.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un consulente in comunicazione all'Organizzazione Mondiale della Sanità, sede di Copenaghen, scadenza per CV oggi, info su irecruit.who.int. Una market research analyst per il gruppo IKEA a Waterloo in Belgio, scadenza per i CV 30 dicembre, info su inter-ikea.com. E infine l'Università di San Gallo in Svizzera ha aperto 2 posizioni per professori di macroeconomia, scadenza per i CV 31 gennaio, info su unisg.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a Copenaghen per andare a studiare il famoso modello danese. Nome: Lorenza. Cognome: Porciello. Età: 32 anni. Città di origine: Roma. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Danimarca. Perché? Per iniziare un nuovo lavoro. Quale lavoro svolge attualmente? Senior legal counsel in una società petrolifera. Dove? A Copenaghen. Tornerai? Per il momento non credo, forse nel futuro. I danesi di Aqua, Good Morning Sunshine, canzone che riflette alla perfezione il tuo stato d'animo nel Nord Europa. In Danimarca sono felice, riesco ad avere una famiglia e una carriera. La Danimarca è un posto perfetto per le famiglie giovani, ci sono tante opportunità, tanta flessibilità. Questa è una società dinamica, giovane, viva, si lavora molto in modo ragionevole ed efficiente. Lorenza, allora, non è uno stereotipo questo famoso modello scandinavo, ma soprattutto è così inevitabile che valga solo a quelle latitudini oppure potremmo copiarlo anche qui? Io credo che potremmo copiarlo e dovremmo, Certo, è una questione culturale, perché qui è normale lavorare in modo flessibile e anche avere più di un figlio e lavorare allo stesso tempo. C'è da dire che lo Stato e il modello scandinavo sostengono le famiglie, chi fa questa scelta. Culturalmente qui c'è molta flessibilità, molta fiducia, però è anche un sistema per cui chi se ne approfitta poi ne vede anche le conseguenze. Lorenza, la tua storia offre molti spunti. Per cominciare partiamo dai tuoi studi, Università Roma 3, giurisprudenza. Cosa ti ha spinto verso una carriera in legge? Una data precisa, il 23 maggio del 92, data della strage di Capaci, ho deciso di fare giurisprudenza. Come molti giovani, è interessante perché molti giovani furono proprio spinti da quei fatti, sì, gravissimi, anche da un moto civile, a interessarsi alla giurisprudenza. Tu però, già durante l'università, approcci il mondo scandinavo, un intero anno in Danimarca con il programma di scambio europeo Leonardo. Perché questa scelta, soprattutto cosa hai fatto in quei 12 mesi? Avevo già deciso di partire con Erasmus, poi ho conosciuto il mio allora fidanzato danese ed ho deciso di venire qui a Copenaghen a fare il Leonardo, lavorando come studentessa in una piccola società informatica, facendo gli esami in Italia e poi ho fatto le ricerche per la tesi. Ma in Danimarca esistono i baroni, no? Questi professori danesi sono come i nostri, vogliono ossequi e presenza fissa oppure sono un po' più easy? No, per fortuna non esistono. I professori, almeno che ho incontrato, alcuni di loro molto noti e rispettati, erano persone semplicissime che andavano al lavoro in bicicletta, che rispondevano alle mie email, mi ricevevano nei loro uffici tranquillamente mandandomi materiale anche su via email, erano molto accessibili e discutevano volentieri con gli studenti. Magari fossero tutti così. Nel 2003 torni per la laurea in Italia. Quale giudizio senti di dare nel complesso sulla formazione che hai ricevuto in Italia? La formazione teorica è stata molto buona, mi ha preparato a lavorare in ambienti molto diversi, però dal punto di vista pratico ho dovuto imparare tutto da sola. Nei successivi 3 anni e mezzo resti a Roma, iniziando l'iter della pratica forense. Se capisco bene, cambi 4 studi, da un penalista alla International Development Law Organization, poi un organismo di mediazione arbitrato, fino a uno studio legale internazionale. Ambiti molto diversi. La tua personale classifica nell'ottica di una valorizzazione di un giovane professionista? Ogni esperienza ha avuto chiaramente i suoi riscontri. Dal punto di vista della valorizzazione di un giovane professionista, sicuramente l'IDLO è stato un ottimo punto di partenza, ma la formazione strettamente professionale l'ho acquisita nello studio internazionale. Che è stata anche la tua ultima tappa, almeno italiana, dove hai svolto la pratica. Qui i lati positivi e quelli negativi sono stati vari. Allora raccontaceli un po'. Tra l'altro è anche interessante che tu, a Giovani Talenti @radio24.it, hai scritto: beh, quantomeno mi pagavano i miei colleghi. No, non è incredibile questo? Beh sì, è incredibile, soprattutto dopo aver vissuto 5 anni in Danimarca, dove tutti vengono pagati, da partire dallo studente fino al professionista. Mi sembra veramente incredibile che ci siano ancora dei professionisti che sfruttano manodopera gratuita con i propri praticanti. La pratica nello studio è stata interessantissima, anche l'esperienza umana molto valida, ma i ritmi di vita erano irragionevoli e impensabili con una famiglia. Tu parli anche di un lavoro troppo gerarchico. In Italia ha sempre ragione chi comanda, e all'estero? Non credo che abbia sempre ragione chi comanda, però di sicuro in Italia è spesso il coltello dalla parte del manico. Qui la situazione è molto più equilibrata e soprattutto anche dal punto di vista culturale mentre in discussione l'autorità è più normale. Lorenza, tra l'altro tu consegui un master alla Sapienza in Criminologia e Scienze Forensi, passi l'esame per divenire conciliatore. Hai avuto l'impressione che in Italia il qualificarti sempre di più servisse a qualcosa? Penso di essere stata apprezzata per questi miei risultati, però più di un apprezzamento morale devo dire che non ho ricevuto niente, mentre qui quando ho passato l'esame d'avvocato in Italia ho ricevuto un aumento perché automaticamente valevo di più. E le pacche sulle spalle non bastano. A quel punto decidi che è ora di chiudere il fascicolo Italia, cerchi lavoro a Copenaghen. Allora, come si cerca e come si trova lavoro in Danimarca? La lingua è un ostacolo? No, la lingua non è un ostacolo, certo bisogna conoscere l'inglese, ma insomma ormai penso che tutti dovrebbero conoscerlo. Il lavoro l'ho cercato online e ho riempito la domanda sul sito della società in modo assolutamente trasparente, allegando il mio curriculum, e dopo 2 settimane mi hanno chiamata per fare diversi colloqui e dopo 2 mesi ho iniziato a lavorare. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Quando mi assunsero alla Maersk, la maggiore società navale del mondo, il mio stipendio triplicò, le ore di lavoro passarono da 12 a 8, mentre la qualità della vita e i benefits offerti dalla società erano imparagonabili rispetto a Roma. E allora, goodbye malinconia, come canta Caparezza. Welcome back Denmark, di cosa ti occupi ora? Ora lavoro nell'ufficio legale di Maersk Oil, una società petrolifera del gruppo navale, mi occupo di contratti internazionali con società e governi locali. Lorenza, la tua storia sembra fantascienza vista da qui. Ci racconti come funzionano dalle tue parti gli aumenti salariali, i bonus di prestazione? Come si promuove addirittura mentre la donna è in maternità? Gli aumenti salariali avvengono di regola sempre, annualmente, la differenza è solo nell'ammontare che cambia in funzione della valutazione del lavoro. I bonus seguono più o meno un sistema analogo e sono stata promossa a Senior Legal Counsel durante la mia seconda maternità, ciò che ovviamente mi ha fatto molto piacere perché è stato anche un messaggio del mio datore di lavoro per farmi capire quanto fossi apprezzata e che speravano che tornassi dopo la maternità. Tu sei estremamente critica verso gli ordini in Italia, scrivi: sono contenta di aver superato l'esame di avvocato in Italia, ma se potessi lo eliminerei. Detesto il sistema forense italiano, penso che quella delle corporazioni e questo sistema di accesso all'albo sia una farsa tutta italiana basata su privilegi, onore della casta e totale mancanza di trasparenza. Le corporazioni secondo me non aggiungono niente, così come superare un esame farsa come quello che dobbiamo superare noi non aggiunge niente alla qualità della professione. Certe volte si ha l'impressione di trovarsi in un romanzo di Kafka. Secondo te gli ordini ostacolano l'accesso dei giovani alle professioni? Sì, secondo me sì. Ciò diciamo blocca completamente la concorrenza. In Danimarca come funziona? Dopo la laurea si devono fare 3 anni di pratica seria e si può fare sia in uno studio che in un ufficio legale di una società, in un ministero o presso un giudice, e durante i 3 anni si svolgono verifiche di apprendimento al termine dei quali poi ci sarà un esame finale e soprattutto i tempi sono ragionevoli. Domanda diritto Lorenza, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? C'è bisogno di uno svecchiamento e per fare un esempio qui l'età media dei ministri del nuovo governo danese è di 35 anni, quindi penso che dovremmo prendere esempio. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Lorenza Porcello, avvocatessa 32enne, senior legal counsel per un'importante multinazionale in Danimarca. Lorenza vi giunge dopo una laurea in giurisprudenza a Roma, dopo il titolo resta in Italia solo 3 anni e mezzo, cambiando vari studi legali fino ad approdare a uno di livello internazionale dove svolge la pratica. Presto si rende conto che il suo posto non è qui, vede i suoi colleghi di studio sfruttati e sottopagati, mentre la mole di lavoro resta spesso insostenibile, senza contare le enormi difficoltà a emergere per i giovani outsider. Parte allora per Copenaghen, superando una serie di colloqui e test psicoattitudinali. Risultato: stipendio triplicato, riduzione delle ore lavorate, aumenti salariali e bonus fino alla promozione ottenuta in maternità. Un altro mondo. Dalla Danimarca, Lorenza osserva sconfortata gli ordini professionali italiani che definisce una casta. Ci raggiunge ora in linea Dario Greco, 40 anni, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Dario, quando l'AIGA nacque a Roma, 45 anni fa, lo fece per iniziativa di un gruppo di legali desideroso di confrontarsi con le realtà professionali europee. Allora, quelle che hai appena ascoltato sono state parole molto dure verso il sistema ordinistico italiano. Io vado oltre. Serve davvero un ordine professionale ai nostri giovani o effettivamente non c'è rischio che diventi una casta che li taglia fuori? Devo dire che tutti i problemi che lei ha evidenziato per quanto riguarda i praticanti e i giovani avvocati sono effettivamente reali nel nostro paese. Diverso però deve essere secondo me l'atteggiamento nei confronti degli ordini professionali. Affermare che gli ordini oggi siano, soprattutto l'ordine professionale forense, sia una casta mi pare un po' esagerato, basta guardare un po' i numeri. Nel 1988 in Italia c'erano 50.000 avvocati, oggi siamo oltre 230.000. Se riteniamo che questi 230.000 siano tutti quanti figli d'avvocato, dobbiamo ammettere che c'è una grande proliferazione, un grande indice di riproduzione degli avvocati italiani. Il problema è che anzi in Italia ci sono troppi avvocati, siamo ad una percentuale di circa 4 avvocati ogni 1.000 abitanti, che non trova riscontro in nessun paese europeo. In Francia ne abbiamo circa 40.000. 60.000 avvocati, in Germania 70.000, in Italia c'è il più grande ordine forense d'Europa, che è Roma, che conta più di 20.000 avvocati. Allora, anticipo, Lorenza, che ha anche una domanda per te, cosa ne pensi? Non so quanti avvocati ci siano in Danimarca, ma di sicuro non altrettanti, soprattutto anche la proporzione. Beh sì, anche più piccola. Ma diciamo che secondo me il problema di quantificare i problemi italiani sempre su quanti siamo in Italia è un po' sbagliato, nel senso che comunque è tutto proporzionale, è proporzionale la popolazione che paga le tasse in modo proporzionale, anche gli avvocati rispetto alla popolazione sono proporzionali, quindi non vedo, diciamo, una giustificazione negli ordini italiani con il numero degli avvocati presenti. E metto in gioco anche la mia professione, l'ordine giornalistico, voglio allargare proprio, no? L'impressione che gli ordini abbiano creato effettivamente due fasce, i giovani che hanno condizioni di stipendio e contrattuali peggiori e i più anziani che invece hanno ancora condizioni di 20 anni fa, 30 anni fa. Non è un prezzo da pagare un po' eccessivo? No, ma su questo io sono perfettamente d'accordo, che vi sia una condizione di sottoproletariato intellettuale in Italia per chi si affaccia a tutte le professioni intellettuali e in particolar modo posso parlare della professione forense. Su questo sono perfettamente d'accordo. Lorenzo aveva parlato di manodopera gratuita per quanto riguarda i praticanti, ma non soltanto praticanti, anche per i giovani avvocati neoabilitati. Questa è sicuramente una condizione di insofferenza certa. Il problema è che oggi, nella crisi che si avvicenda da diversi anni nel nostro paese, chi non trova un impiego pubblico, chi non trova da fare altro, si butta nel mercato delle libere professioni. Il problema è che tutti coloro che non riescono a fare, laureati in giurisprudenza, i magistrati, i notai, o non accedono ad un concorso nella pubblica amministrazione, si iscrivono all'albo degli avvocati, dove è vero che l'esame è falsa, è vero che la pratica è finta, però con un po' di pazienza tutti quanti poi diventano avvocato e i numeri lo confermano. Il problema fondamentale è che oggi si esce dall'università non avendo ricevuto una vera e propria qualificazione professionale. Il tempo stringe, ma c'è la domanda di Lorenza a Dario. Prego. Vorrei sapere che cosa pensa, se pensa di fare qualcosa l'AIGA per fermare lo sfruttamento illegale, secondo me, di migliaia di praticanti in tutta Italia e per spingere i giovani a dire di no allo sfruttamento gratuito da parte di professionisti, ma soprattutto punire, ovvero escludere quei professionisti che si appunto avvalgono di manodopera gratuita. Noi fortunatamente siamo riusciti ad ottenere già nel progetto di riforma dell'ordinamento forense che è stato approvato dal Senato, ma anche adesso nell'ultimo decreto legge di agosto, l'obbligatorietà della retribuzione del praticante dopo un primo periodo di pratica commisurato all'apporto ottenuto. Questa è una grande vittoria della mia associazione dell'AIGA, perché è da anni che ci battiamo per questo. Puntiamo ad altro, avevi ragione tu quando hai detto che c'è una condizione di assoluto precariato dei giovani professionisti, dei giovani avvocati negli studi legali. Puntiamo anche ad un obbligo di retribuzione per il collaboratore di studio di un titolare di studio più affermato e molto spesso più anziano. Puntiamo a regolamentare tutti questi rapporti. Devo riconoscere una cosa, l'avvocatura italiana è favorevole, tutte le componenti dell'avvocatura italiana sono favorevoli ad un'iniziativa del genere. Purtroppo la politica non ci ha dato ascolto. Noi continueremo ancora in questa battaglia e credo che abbiamo buone possibilità di successo. Grazie a Dario Greco, presidente dell'AIGA, e soprattutto in bocca al lupo. Domanda di rito per Lorenza Porcello. Per chiudere, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Io non voglio spingere i giovani italiani a lasciare l'Italia, perché penso che i più grandi cambiamenti sono stati fatti da coloro che sono rimasti e hanno lottato. Il mio più grande consiglio è questo, di viaggiare, aprire gli occhi, perché solo così ci si può rendere conto che quello che succede altrove è possibile e soprattutto che è possibile realizzarlo anche in Italia. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi vi parliamo di un libro pubblicato da poco, Shanghai solo andata, con un sottotitolo eloquente, Storie di giovani italiani in Cina. Lo ha scritto Duccio Alabiso, 37enne manager per un'azienda di Shanghai. Duccio ci spiega com'è nata l'idea editoriale. Un po' per caso e un po' anche per la mia storia, nel senso che sono via dall'Italia da più di 15 anni e ogni volta che torno, insomma, ho modo di vedere l'Italia cambiata, per cui sento molta gente lamentarsi della situazione italiana e allo stesso momento sento molto parlare di Cina, però in maniera assolutamente, devo dire, ignorante per la maggior parte delle volte, da persone che non ci sono mai state, neanche magari in Asia. Per cui ho cercato di unire queste due cose, il fatto che la Cina, insomma, la vedo da un altro punto di vista e il fatto anche che qua ci sono sempre più italiani, soprattutto giovani, che vengono insomma a provare un po' la fortuna, e ho pensato di raccontare la storia attraverso i loro occhi, intervistandone una ventina. Che profilo hanno? Sono persone che non hanno studiato lingue orientali, che non sono state mandate qua dall'azienda e che non sono qua da 15 anni come me, ma sono arrivate negli ultimi mesi, negli ultimi paio d'anni. Dove lavorano? Un po' dappertutto, soprattutto a Shanghai come zona, e alcuni sono, metà sono imprenditori e poi ci sono dentro cuochi, impiegati, ingegneri, architetti, un po' di tutto. Perché vengono in Cina e non restano in Italia? La maggior parte si lamenta della situazione di cui sentivo proprio lamentarsi in Italia, e però semplicemente decidono di provare un'altra strada. Pensano che in Cina insomma ci siano più occasioni e sia un po' più facile forse per riuscire. Un paese dove c'è un futuro anche professionale, questo non avviene invece in Italia per loro. Per loro no, tra l'altro nelle interviste poi viene fuori che per gli impiegati forse insomma non è passato il momento, però non è più l'Eldorado che era qualche anno fa, dove bastava venire se stranieri per diventare mega direttori generali. Per gli imprenditori invece adesso è il momento proprio perfetto, perché la Cina si è un attimino regolamentata. È un fenomeno in crescita quello dell'immigrazione giovane e qualificata verso la Cina? Sì, assolutamente, in grandissima crescita, soprattutto devo dire forse negli ultimi 5 anni. Per maggiori informazioni, Shanghai solo andata, di Duccio Alabiso, Francesco Brioschi, editore. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata numero 100 di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo, vigilia di Natale, alle 13.30, sempre su Radio 24. Avremo anche una sorpresa. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.